9 in punto, la versione di Oscar. Il discorso è sui compensi ai banchieri, inizia così, ma è un discorso più importante. Le banche devono essere al servizio della gente, non la gente al servizio delle banche. La dimensione industriale delle banche e la logica delle banche non corrisponde sempre alla dimensione della nostra economia e ai bisogni delle nostre piccole e medie imprese. Ecco, lo avete ascoltato, è l'accusatore capo, il prosecutor, l'attorney general, insomma il coordinatore delle accuse ai banchieri, a quelli internazionali come responsabili della crisi, ma anche a quelli italiani. E dire che in Italia di banche fallite non ce ne sono state, come sappiamo, ed è un motivo di vanto del nostro sistema bancario. Era Giulio Tremonti che continua sistematicamente a puntare il dito contro i banchieri. Pochi giorni fa, alla ripresa dopo la pausa estiva, ha ripuntato il dito e ha detto le banche italiane che non hanno aderito ai Tremonti Bond, degli strumenti ibridi di ricapitalizzazione che il governo ha messo a disposizione fin dall'inizio della crisi delle banche italiane, con l'obiettivo di accrescere la dotazione patrimoniale delle banche e trasferire quindi con dei multipli più elevati il credito alle imprese che ne lamentano la restrizione. Le banche italiane che non ne hanno approfittato, dice e ripete il ministro Tremonti, evidentemente non hanno a cuore il buon andamento dell'economia produttiva del nostro paese. Ha detto: è come un ponte che con i Tremonti Bonds abbiamo lanciato tra la politica e il credito alle imprese, ma su quel ponte c'è un signorotto, il banchiere, ha detto Tremonti, e questo signorotto decide lui qual è il flusso, se farlo o non farlo passare, e non ci fa passare. Naturalmente i banchieri su questo rispondono, hanno risposto nei mesi con crescente, con coraggio anzi ed energia, a questo tipo di attacchi. Addirittura il presidente dell'ABI, che è una persona nota per l'assoluta misura delle sue parole, Corrado Faissola, ha paragonato Tremonti a Putin, e Tremonti all'indomani al Cernobbio ha risposto dicendo: bah, se Faissola mi vuole vedere penso che non posso vederlo perché non c'ho l'interprete di russo. Insomma, è un confronto abbastanza aspro. Novità di ieri: Silvio Berlusconi invece si mette dalla parte dei banchieri. Troverete sui quotidiani italiani, descritto e commentato da molte testate, una serie di dichiarazioni del Presidente del Consiglio che insomma sono più prudenti rispetto a quelle di Tremonti. Berlusconi ha detto: io mi metto nei panni dei banchieri e dico che non li si può poi troppo criticare per una specie di obbligo che loro avrebbero di finanziare le imprese, le famiglie, devono essere più prudenti. Allora, in questa forbice tra chi considera i banchieri responsabili di una scelta di eccesso di avidità, gli attacchi ai bonus, gli attacchi a chi dice che tutto continua, e chi dice invece sì, ma nei momenti in cui l'economia va male le banche sono obbligate a essere ancora più prudenti visto che sofferenze e incagli aumentano, in questa forbice oggi noi ci confrontiamo su questo tema. Io vi presento i nostri ospiti, e ai quali vi prego di porgere domande poi chiamando all'800 24 00 24. Abbiamo con noi innanzitutto Massimo Mucchetti, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Massimo. Ciao, buongiorno a tutti gli radioascoltatori. E Mucchetti ieri ha scritto un editoriale in prima pagina del Corriere della Sera argomentando in maniera anche tecnicamente molto efficace che tutto sommato poi questi strumenti di cui il ministro lamenta il non utilizzo da parte delle banche sono molto onerosi, e in realtà forse il governo avrebbe delle strade più efficaci, più immediate, se vuole accrescere gli impieghi alle imprese. Per esempio diminuire una tassazione che grava sugli accantonamenti per il rischio di perdite, quindi invogliare così le banche a migliorare i propri coefficienti patrimoniali, e per conseguenza ne deriverebbero quindi impieghi più facili. Poi abbiamo Franco De Benedetti. Buongiorno De Benedetti. Buongiorno. Che scrive su numerosi quotidiani, scrive sul Sole 24 Ore, scrive sul Riformista, è già stato senatore per il centro-sinistra in tre legislature. C'è un bellissimo libro che è uscito da pochi mesi, che ha scritto insieme ad Antonio Pilati, La guerra dei 30 anni, sulla televisione ne abbiamo parlato anche qua. Ecco, cominciamo proprio da lei, De Benedetti. Stamattina sul Corriere della Sera, a seguire dal fondo di Mucchetti che c'era ieri, ce n'è un altro di Dario De Vico, che affronta questo problema in maniera un po' più ampia, però partendo sempre da un punto di vista che ci interessa. Dice: gli attacchi ai banchieri, le polemiche politiche in realtà fanno parte di un discorso più ampio, quindi le chiedo di affrontare prima questo tema, poi entriamo nel dettaglio delle banche. Dice Di Vico: c'è un problema perché forse le elite, quelle che sono responsabili agli occhi delle opinioni pubbliche, del piccolo imprenditore, della famiglia, della globalizzazione, oggi hanno un deficit di consenso, ed è per questo quindi che si diffonde l'opinione, ed è facile per i politici accusare quelle elite di continuare tutto come prima, di accusarle di non pagare un prezzo abbastanza elevato e quindi per esempio di continuare con i bonus troppo elevati. C'è questo problema secondo lei? È un problema di elite che non riescono oggi a spiegarsi mentre prima erano gli artefici del mondo che funzionava? Che pensa lei? Certamente che c'è, il fatto stesso che sia avvenuta una crisi di questo genere, è chiaro che sono in tanti a fare la oramai famosissima domanda della regina d'Inghilterra, perché a chi viene rivolta se non alle elite questa domanda, alle elite intellettuali, perché non avete, gli economisti nella fattispecie, perché non avete saputo provvedere, ma secondo me assai di più alle elite politiche, perché non avete predisposto i controlli, dal momento che a voi spettavano di istituire vigilanze e controlli. Perché non. Quindi la crisi delle elite, beh sì, c'è, però è abbastanza... E secondo me a questo punto c'è sicuramente una specie di scaricabarile su quale elite, perché esistono le elite finanziarie, esistono le elite intellettuali, ma esistono anche le elite politiche. E questo è un discorso che ci porterebbe più lontani dal terreno che... No, ma venendo nel terreno, lei ieri sul Foglio ha scritto un articolo in cui ha snudato lo spadone e con coraggio ha detto, insomma, gli attacchi sui bonus dei banchieri sono attacchi sbagliati, demagogici. Ma quello dei bonus poi il problema della credibilità dell'elite è una cosa. Poi c'è il problema dei bonus. Questo dei bonus secondo me è veramente una battaglia che, insomma, nell'articolo di Di Vico la parola al fondo c'è, ma questo è un attacco populista oppure no? E io credo che nel caso dei bonus lo sia assolutamente, perché nel caso dei bonus il problema non è sapere, cioè se i banchieri hanno avuto dei bonus eccessivi e in qualche caso oltraggiosamente offensivi per il buon senso e per il senso comune, bisogna capire perché sono riusciti a farlo, perché le banche hanno guadagnato molto, perché le banche guadagnavano molto. Stamattina sfogliavo il Wall Street Journal di stamattina, ci incominciano a vedere delle spiegazioni. Dove guadagnano molto le banche? Le banche guadagnano molto nel fare gli IPO, cioè nel fare la quotazione di aziende, oppure nel fare i merger and acquisition, cioè nel fare le fusioni delle banche. Perché guadagnano tanto? Perché le aziende sono disposte a pagare delle cifre così importanti per queste operazioni? Sarebbe, se si diminuisce l'interesse delle banche a fare queste operazioni, se le fanno di meno, è bene o male per l'economia? Le cose sono molto più complesse di come appaiono. Dire, andare a vedere l'ultima manifestazione, quella più visibile, cioè la paga dei banchieri, dire taglio lì e con questo si risana su tutto, una sciocchezza semplificatrice o è puro populismo? Mucchetti, veniamo alla croce delizia del confronto con gli imprenditori. Io richiamo solo un dato: a luglio gli impieghi del sistema bancario italiano al sistema delle imprese hanno registrato un poco più che nullo, insomma un modestissimo più 1,3%, solo un anno prima, a giugno del 2008, eravamo a crescita a doppia cifra all'11,8%. E quel che più conta, luglio è stato un altro mese in cui c'è una restrizione rispetto ai mesi precedenti, cioè non si sono visti ancora i segni della ripresa degli impieghi. tradizionalmente è uno degli ultimi indicatori di ripresa, perché ovviamente man mano che il sistema dell'economia reale entra in torsione, sofferenza e incagli si alzano, le banche quindi sono più prudenti e oltretutto le imprese, finché non vedono ripartire la domanda, chiedono anche meno prestiti bancari, perché hanno meno investimenti da programmare, da finanziare. Finché non si è sicuri, stanno più ferme, e quindi questo consente una polemica doppia, perché da una parte le imprese dicono: vedete la restrizione di credito che continua mentre invece ci sono i primi segni di ripresa dell'economia, dall'altra le banche dicono: ma sì, ma noi dobbiamo essere più prudenti, e poi siete anche voi che ci chiedete di meno oramai. Chi dei due ha ragione secondo lei? Io credo che tutti e due dicono una cosa abbastanza vera, come sempre, siccome sono delle controparti in una trattativa, ciascuno tira l'acqua al suo mulino, per cui la politica ovviamente decide di stare con le imprese, perché le imprese sono infinitamente di più. Cioè, diciamo le cose stando con i piedi per terra. Il problema del finanziamento delle imprese, l'hai detto molto correttamente, è un problema legato all'andamento del ciclo economico. Se non ci sono previsioni di ripresa significativa, è evidente che le imprese rallenteranno gli investimenti, e se pensano che le proprie merci non saranno vendute facilmente, difficilmente vorranno aumentare la capacità produttiva per produrne di più e lasciarle in magazzino. Quindi questi sono dati un po' di realtà. All'interno di questo schema generale ci sono naturalmente tanti casi specifici nei quali le banche possono non fare bene il proprio lavoro, e qui allora bisognerebbe tornare indietro a come è stata fatta la ristrutturazione bancaria, alla creazione dei gruppi grandissimi e tutte queste cose che però, diciamolo, hanno riscosso, quando vennero decise, l'applauso entusiasta di tutti, perché io non mi ricordo persone che avessero contestato, come si contesta oggi, la fusione fra Intesa e San Paolo, oppure l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit. Mi pare che l'intera politica fosse d'accordo, l'intera classe degli economisti. Ci fu qualcuno da Londra che disse che non andava tanto bene, ma la diceva con occhio perché voleva che Unicredit addirittura pagasse ancora di più, no? Quindi peggio sì, mi sento. Devo ammettere che eravamo pochissimi giornalisti a fare delle considerazioni critiche, sicuramente nessun politico, nessun economista, questo hai perfettamente ragione. Ma soprattutto, Oscar, nessun azionista. Assolutamente. E gli azionisti di queste grandi banche non sono i soliti noti, sono centinaia di migliaia di persone, milioni di persone hanno avuto i loro parte dei propri risparmi in borsa e tutti erano contenti. Questi milioni di persone sono anche clienti delle banche, e alcuni di loro sono quelli che oggi magari giustamente si lamentano. Quindi il tema è un po' più complicato. Certo. Usare lo spadone può far comodo per raccogliere voti, ma non serve a risolvere i problemi. Ora ti faccio invece due esempi che ha fatto Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria, a Cernobbio qualche giorno fa, dicendo: signori, abbiamo attivato tanti strumenti in questi mesi di confronto costruttivo con le banche, abbiamo fatto la moratoria di un anno per la restituzione delle rate di capitale per i prestiti bancari alle imprese in bonus, abbiamo fatto tante convenzioni per tentare di rialimentare il circuito del credito, e ha fatto due esempi proprio su questi. Ha detto: abbiamo fatto una convenzione a maggio promossa dal governo, una convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'ABI, sistema bancario, attraverso il quale si rendevano disponibili immediatamente per quest'anno 3 miliardi, 8 miliardi di euro addirittura complessivamente a garanzia di impieghi per le piccole e medie imprese, e oltre a quella convenzione, per renderla poi concretamente operante, bisognava immediatamente fare successivamente dei concordati tra ogni singola banca e Cassa Depositi e Prestiti. Ebbene, solo 5 banche hanno sottoscritto in concreto questi accordi, banche tranne Unicredit, le altre sono banche piccole: il Credito Valtellinese, che si sospetta che lo faccia un po' perché Tremonti viene di là, l'Icrea, il Credito Sportivo, insomma niente di che. Secondo esempio, la convenzione fatta a luglio per rendere finanziabili, cioè scontabili in banca, i tanti debiti della pubblica amministrazione nei confronti del sistema delle imprese, Anche qui una convenzione di ordine generale firmata da SACE con ABI, che però per diventare operativa ha bisogno poi di accordi con le singole banche. Quante banche l'hanno sottoscritta? Zero, diceva la Marcegaglia l'altro ieri. E sono esempi un po' che fanno riflettere, perché mentre da una parte è vero che i Tremonti Bond sono più onerosi di altre possibilità di finanziarsi sul mercato, oggi il Messaggero spiega come per esempio Intesa stia pensando a un'emissione ibrida di capitale che si chiama Lower Tier 2 per i tecnici, e che però è praticamente capitale ai fini dei coefficienti di vigilanza e che costa diversi punti in meno dei Tremonti Bond. Però da questo punto di vista concreto, degli strumenti attivati per, con garanzie pubbliche perché le banche finanziassero le imprese, com'è che secondo te, Massimo, poi le banche appaiono agli occhi degli imprenditori così lente nell'attuarla? Scusate, io farei adesso, penso di non passare per un difensore delle banche, data la mia storia professionale, no? No, ci mancherebbe, figurati. No, nel senso che nel giornale per il quale lavoro ne abbiamo alcune tra le più importanti come azionista, Intesa, Mediobanca, prima c'era Capitali, adesso di fatto è tornato Unicredit, eccetera, eccetera. È sottoscritto, ha fatto un libro, non soltanto degli articoli, per dire che queste devono uscire dal capitale dell'azienda per la quale lavora. Quindi, e come no? No. Come dire, le mostrine credo di poterle esibire, lo dico per non essere frainteso. No, ma se, no, se hai avuto l'impressione che ti utilizzassi a difensore, no? Lo dico assolutamente, certo. E per invece i nostri ascoltatori che non possono, giustamente hanno altro a cui pensare, non possono sapere tutto, quindi vorrei essere ben capito. Quando dico ben capito dico questo: qual è il mestiere della banca? Il mestiere della banca è raccogliere depositi, risparmi da parte della clientela e con questi soldi fare dei prestiti, perché siccome i depositi poco o tanto, oggi poco, in altre stagioni di più, li devono pagare, poi dopo bisogna guadagnare con quei soldi e quindi le banche hanno fisiologicamente interesse a fare credito a imprese e persone, perché su quello guadagnano e fanno i loro conti. Cioè, vorrei che questo qui non venisse dimenticato, non è che devono tesaurizzare le cose, dove li mettono? In bot che rendono lo zero virgola, eh? No, quindi fare del credito sia pure ai tassi più bassi, oggi la forbice fra tassi attivi e passivi di poco più del 4% è comunque il modo con cui queste fanno i bilanci. Perché non aderiscono a queste convenzioni? Io me lo domanderei perché, e eviterei di dare una risposta del tipo perché sono cattivi, perché sono avidi, perché sono terribili, perché non andiamo lontano in questo modo. No, certo. No, perché allora qual è l'alternativa? Le nazionalizziamo? Ma io voglio dire, perlomeno si può fare tutto, ma poi bisogna dirci anche che cosa vogliamo fare, perché se è un anno che facciamo appelli e gli appelli non vanno da nessuna parte, ci sarà un perché. Certo. Che non sia soltanto un perché complottistico. No, ma sarà infatti un perché legato in qualche misura all'oggettività, alla difficoltà delle cose, perché quando noi abbiamo voluto avere delle banche private, cioè società a scopo di lucro, non sempre è stato così, a un certo punto abbiamo deciso che così dovesse essere, abbiamo messo i gestori di queste aziende speciali in una posizione che era diversa da prima, quindi non si può chiedere loro di essere delle società di beneficenza o delle società di aiuto o strumenti della politica economica del governo, perché altrimenti non bisognava privatizzarle. Certamente, l'unico interrogativo che adesso rilanciamo dopo la pausa di pubblicità è quello che deriva in qualche maniera alle imprese dalla lettura da dove provengono gli utili, più che dimezzati in molti casi, ma insomma ancora molto forti del sistema bancario nelle prime due trimestrali, e si vede che sono utili di attività non tanto quelle tradizionali bancarie, quanto appunto da property trading, cioè da il fatto di essere boutique finanziarie che piazzano prodotti e servizi a una leva che resta molto elevata. E quindi la domanda è poi: ma è cambiato davvero qualche cosa dopo un anno dalla crisi di Lehman Brothers? Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del nodo delle banche, dei demoni cattivi, insensibili alla sofferenza delle imprese, oppure invece appunto aziende private che a maggior ragione nella crisi sono tenuti a fare utili, a essere più caute nella concessione del credito a fronte delle garanzie che peggiorano. E poi è una facile demagogia quella dell'attacco politico del ministro Tremonti, oppure ci sono dei motivi di fondatezza? nel fatto che poi il sistema bancario italiano si ritiene un po' troppo, voglio dire, irresponsabile, non tanto perché è privato, ma perché, poi non dimentichiamolo, viviamo anche in un sistema in cui gli azionisti privati del sistema bancario sono di tipo un po' anomalo, le fondazioni bancarie molto autoreferenziali, molto poco tradizionali azionisti privati come nel resto del mondo. Ecco, intorno a tutti questi interrogativi ci stiamo chiedendo con i nostri ospiti, ma sentiamo alcuni di voi, gli ascoltatori. Iniziamo da Paolo, da Pavia. Prego Paolo. Sì, buongiorno e grazie della linea. Dica. Dunque, io ho, dalla mia esperienza, ho notato tre grosse lacune che mancano adesso per dare quella cinghia che trasmette poi dalla finanza all'economia reale. Uno è purtroppo è politico-sociale, cioè negli ultimi 10 anni la tendenza è stata sempre quella di forzare i consumi e secondo me con poca progettualità, quasi zero, e i risultati si vedono, perché si arriva al secondo punto che la banca finanzia di solito idee abbastanza concrete, e io lavoro, giro il mondo e vedo che da noi idee ce ne sono poche. E il terzo punto secondo me è un problema legislativo, cioè una banca ti finanzia se hai le idee e se puoi restituire i soldi, e soprattutto con la legislazione che abbiamo noi, se non riesci a restituirli, recuperare un credito anche per una banca è un'impresa costosissima. Quindi secondo me questi tre fattori hanno frenato e freneranno ancora per molto il nostro mondo. Grazie Paolo. Mi tocca ricordare che però sul primo, quello del finanziamento a debito dei consumi, l'Italia e il sistema bancario italiano sono in realtà assai in basso nelle graduatorie dei paesi avanzati. Noi abbiamo un finanziamento a fronte di garanzie reali anche dei consumi, siamo tra i paesi avanzati quelli con il minor numero di utenti di carte di credito. Non credo che sia una cosa di cui vantarsi troppo, ma è così, con pochissime carte revolving, che sono quelle più rischiose perché si finanzia, per così dire, l'ignoranza dell'interesse composto da parte del consumatore. Quanto al terzo punto, faccio notare che per il recupero crediti la maggior parte dei grandi gruppi bancari italiani dopo il consolidamento si è attrezzata con l'outsourcing, cioè delegando tutto questo che era una funzione tradizionale della banca commerciale tradizionale, cedendo tutto l'insoluto accumulato in anni nel recupero crediti a prezzi scontati, cartolarizzando per così dire l'insoluto del recupero crediti a terzi e spesso cedendo la gran parte dei dipendenti che se ne occupavano. Quindi anche lì sono cose che, viste dal di dentro, nella tecnicalità del sistema bancario italiano, mi fanno un po' riflettere, e ci andrei piano con il dire che questo poi è responsabile del fatto che le banche sono penalizzate. Non lo so. Sentiamo ancora Francesco da Novara e torniamo poi ai nostri ospiti. Prego Francesco. Buongiorno, io faccio una breve premessa. Il sistema bancario italiano, secondo me, fa di cultura anche costituzionale. Infatti la banca in Italia, come mi intendo, non è un ente prevalentemente privato, perché la Costituzione è l'unica impresa, parla specificamente di impresa bancaria, quando dice che la Repubblica tutela i crediti del risparmio. Ora, quello che si dà, a mio avviso, lo dice da vicino. Francesco, io non, purtroppo non è che voglio tagliarti l'intervento, ma è che prevale, credo che tu sia su un'autostrada, e quindi ci prendiamo solo la tua osservazione che è un'impresa privata un po' particolare, perché c'è appunto la Costituzione che tutela il risparmio. Torniamo un secondo da De Benedetti. Oggi De Aglio dice questi tre critici delle banche, i risparmiatori, poi le imprese, poi il governo, hanno in realtà più torto che ragione, le banche non devono essere buone. Quindi in realtà la pensa esattamente come lei e come Mucchetti. Ma nel dettaglio, quanto conta secondo lei il fatto che abbiano degli azionisti, sto parlando delle banche in forma di SPA, cioè delle grandi banche, sul totale delle 800 banche sono circa 250 quelle in forma di SPA nel nostro sistema, e sono sicuramente quelle con gli attivi e gli impieghi più rilevanti, ma quanto conta che poi abbiano degli azionisti un po' particolari? Quanto irrita i politici il fatto che siano un po' troppo autoreferenziali gli azionisti delle banche SPA, secondo lei, De Benedetti? Ma indubbiamente questo la compagine azionaria delle banche, in modo particolare del ruolo delle fondazioni, che non dimentichiamo non sono più maggiore in nessun caso, tranne la MPS, hanno delle quote di possesso tale da poter esercitare il controllo, ma contribuiscono al controllo e hanno comunque un ruolo molto importante nella governance delle banche. Questo è sicuramente un problema, non tanto anche perché poi le fondazioni ambiscono nel loro insieme, ambiscono ad avere un ruolo politico, e questo complica sicuramente le cose. E ritorno a quello che si diceva prima delle fusioni, delle due grandi fusioni bancarie, e mi iscrivo anch'io nella lista di coloro che avevano delle grosse perplessità su questo. È indubbio che il mercato italiano, dove pure c'è una grande quantità di banche, però c'è veramente il massimo di concorrenza. I comportamenti che noi contestiamo alle banche, cioè quello di essere eccessivamente prudenti, non deriva forse nell'erogare il credito, non deriva anche da una mancanza di concorrenza? E questo ci ricorda delle vicende di un passato neppure tanto remoto, quando la possibilità di avere una maggiore concorrenza, una maggiore presenza anche di altri attori, magari non italiani, sul mercato italiano, è stata vista come un pericolo ed è stata bloccata. Io credo che riguardo quello che si diceva prima, anche il quanto delle banche, sul fatto che le banche prestano poco, è difficile generalizzare. Io ho una visione di una banca non, certo non tra le piccole in Italia, nella quale la maggior parte di richieste di credito provengono dal settore immobiliare, e ho ragione di credere che questo sia un fatto generale. Ora, dobbiamo buttare la croce addosso alle banche perché non finanziano il settore, o perché sono un po' prudenti nel finanziare il settore immobiliare? Dopo averlo molto finanziato, tutti i risanamenti e tutte le cose che conosciamo, è proprio questo, perché nelle statistiche di quanto i crediti si erogano, la statistica è un numero che riguarda la totalità dei crediti erogati. Allora, se la parte immobiliare è maggiore, è molto difficile dal dato globale dedurre quanto è stato dato alle aziende. Cioè, c'è sempre il fatto, esistono sempre i casi singoli, le lettere, i fatti singoli che vengono portati, però non bisogna populisticamente sfruttare questo, ma guardare il problema nel suo complesso. Io, per essere concreti, io credo che la mancanza di concorrenza nel settore bancario, peggiorata dal fatto che esistono degli azionisti speciali, quali le fondazioni, che hanno un modo di ragionare degli interessi comuni, riduce la concorrenza nel settore bancario. Forse questa è una delle concause, per così dire. Mucchetti, siccome sono tutti d'accordo, tutti unanimi nel dire che il terzo pilastro del sistema bancario italiano, cioè non tanto le banche spacco, le grandi, non tanto le 38 banche popolari sul totale delle 800, quanto le oltre 400, le banche di credito cooperativo, le casse rurali, tutti sono più o meno d'accordo nel dire che quella è la parte del sistema bancario che ha risposto con minore difficoltà alla crisi, che aveva i coefficienti patrimoniali più solidi, ovviamente tutta radicata sul territorio, conosce e guarda negli occhi gli imprenditori e continua a fare impieghi a doppia cifra, 11% rispetto all'1% del totale del sistema. Allora la mia domanda è: ma come mai in Italia poi fino a questo momento abbiamo fatto il consolidamento della parte alta del sistema bancario, ma dal basso non si è mai messo in moto qualcosa di analogo a ciò che nella seconda metà dell'Ottocento portò all'Agricol, che era poi il frutto di centinaia di casse rurali che si mettono insieme, e ancora oggi il credito agricolo è in realtà controllato a maggioranza da 41 federazioni regionali o subregionali di casse rurali verdi. Perché in Italia no? Ma io dico, meno male che non abbiamo fatto gli eccessi di concentrazione di altri paesi. Perché dobbiamo anche domandarci il perché il credito cooperativo in Italia, che viene scoperto colpevolmente soltanto adesso, c'è da sempre, ha più di 100 anni, lo ritenevamo la Cenerentola. In Francia il credito agricole è l'unione operativa per certi versi, ma per un altro verso le casse rurali francesi sono oltre 2000. Cioè, bisogna un po' dire le cose giuste da questo punto di vista. Il credito cooperativo, che rappresenta il quarto grande gruppo, diciamo, se lo prendessimo tutto assieme, no, bancario italiano, è quello tradizionalmente più vicino al cliente, al depositante e quant'altro. Però anche qui, dopo aver detto queste cose molto belle del credito cooperativo, non dobbiamo dimenticare che il credito cooperativo è un prestatore netto sul mercato interbancario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono comunque di più i depositi che raccoglie degli impieghi che fa, mentre i grandi gruppi sono prestatori netti, cioè sono più gli impieghi che fanno dei depositi che raccoglie. Questo lo dico perché non bisogna cadere nelle mode, cioè dopo non aver mai considerato una cosa, adesso farla diventare di più di quello che è e viceversa. Non sono molto d'accordo con tre cose che sono state dette. La prima, vorrei spezzare una lanza a favore dell'ascoltatore Paolo, che poneva un punto molto vero sulla difficoltà, lui ha usato la definizione sintetica di recuperare i crediti dubbi, eccetera, perché il fatto che questi che ci siano delle cartolarizzazioni, che ne venga ceduto ad agenzie specializzate o addirittura a società terze il recupero, è una cosa che viene dopo e che secondo me, se, a mio parere, conta di meno rispetto al fatto che oggi per esempio le perdite su crediti non siano deducibili ai fini IRAT. Se la Fiat ha 100 auto in magazzino, questo concorre a formare il valore della produzione nell'anno, lo dico per chi certo, ha qualche confidenza, no? E ha a 100 euro. Se poi per doverle vendere l'anno dopo le vende a 50, il valore della produzione di quell'anno lì sarà di 50 di meno e, e quindi avrà un'influenza, diciamo, positiva, tra virgolette, sulla tassazione dell'azienda, no? Certamente. Ecco, se tu per la banca il credito e gli impieghi sono la stessa cosa dell'automobile per la Fiat, no? Però a differenza della Fiat le perdite su impieghi, no, non sono deducibili ai fini IRAP. Ecco, allora io oggi le banche hanno deducibili le svalutazioni crediti fino allo 0,3% del totale dei loro impieghi. Una volta era lo 0,6. In Spagna praticamente è illimitato e ci domandiamo come mai le banche spagnole sono forti. Ora, io non dico che debba essere come in Spagna, che secondo me è una scelta politica del governo per sostenere un'impresa rispetto ad altre. E non contesto nemmeno il fatto che i governi nel tempo abbiano ridotto dallo 0,6 allo 0,3% la possibilità di accantonare fondi per rischi su crediti in esenzione di imposta. Dico però che questo era giustificato dal fatto che in quegli anni le banche guadagnavano tanto. Esatto, e questo è meno. Era giusto tosare la pecora. Però Massimo, ti faccio un'obiezione. Le imprese l'anno scorso e quest'anno di sgravi fiscali non ne hanno avute, mentre invece tutti, e anche il tuo articolo ieri ricordava appunto la Robin Tax di Tremonti, che appena entra il governo in carica cosa fa? Mette nel mirino gli utili bancari e ne aumenta l'aliquota reale. Però ci si dimentica sempre di dire che poi contestualmente il governo già l'anno scorso gli ha dato un bel incentivo fiscale per riallineare il valore storico degli attivi patrimoniali, e da quel beneficio nella prima trimestrale di quest'anno veniva tra il 30 e il 40% degli utili. Le imprese non lo hanno avuto e quindi insomma in qualche misura il governo dice adesso: se fate la moratoria io ti do altri incentivi fiscali, le imprese ordinarie non le hanno avuto. E questo fatto in qualche misura bisognerà anche tenerne conto, perché sennò noi pensiamo solo a ciò in cui il fisco svantaggia le imprese bancarie italiane rispetto alle concorrenti, ma dimentichiamo che poi il fisco con l'altra mano restituisce, cioè in parole povere io lo ricordo sempre: l'impresa Giannino paga il 57%, Unicredit nel 2008 ha pagato l'11% di tax rate. Delle banche e delle accuse, delle polemiche rivolte nei loro confronti, ma anche dei solidi argomenti che hanno le banche italiane nei confronti delle banche concorrenti, che non solo sono andate peggio ma a volte hanno regimi molto più favorevoli di quanto non abbiano le banche in Italia. Di questo parliamo. Un altro ascoltatore, Alessandro da Pescara. Prego Alessandro. Dunque, voglio riprendere un istantino con la vostra interlocutrice che ho contattato. Parlavo prima della diversa nomenclatura che esiste oggi nel sistema bancario, ossia io sono un dirigente in pensione di un grosso istituto, forse uno dei più grandi in Italia, però veda, fino a 7-8 anni fa, quando io ancora ero in attività, ad esempio l'erogazione del credito dipendeva molto, dico, sottolineo molto, dalle impressioni reali, locali, che il funzionario di turno, il direttore di filiale di turno aveva dell'interlocutore. Questo anche a prescindere da valutazioni strettamente tecniche legate al circolante, a quant'altro. Oggi i parametri di Basilea 2, per capirci, quelli che oggi tutti vogliono esattamente cambiare. Oggi, per in estrema sintesi, io rilevo e sento, perché ancora vivo nel territorio, sento i miei ex clienti che si lamentano proprio di questa asetticità che hanno, specie i grossi gruppi bancari, perché le casse rurali, le piccole casse di risparmio, ancora non accorpate ovviamente, ancora operano nel senso che io indicavo. Questo cosa significa? Significa che il rapporto diretto funzionario, direttore, cliente quasi non esiste più. Mi spiego meglio. Quando io ero non c'è bisogno di approfondire, questo è chiarissimo come l'ha detto, e quindi questa è una caratteristica. Quindi lei dice quelle territoriali e cooperative mutualistiche poi in realtà per questo sono avvertite come meno responsabili e fanno anche più impieghi rispetto alle altre. Però c'è l'osservazione che aveva fatto Mucchetti sul fatto che poi in realtà attenti anche a considerare questo come una moda un po' troppo figlia di un'interpretazione facile, ecco, della crisi. Io sono interessato anche a un altro aspetto, ma le banche dopo questo anno hanno imparato dal punto di vista delle condizioni che rifilano di prodotti e servizi ai loro clienti? Ecco, questa domanda la giro a Beppe Scienza, che insieme a noi, mi scuso perché l'abbiamo tenuto un po' a telefono senza interrogarlo, Beppe Scienza insegna matematica finanziaria all'Università di Torino, ha scritto un libro che io molto vi caldeggio, si chiama Il risparmiatore tradito, Cortina editore Torino. Beppe Scienza, dal suo punto di vista, lei che è un severo analista di condizioni di prodotti e servizi nel risparmio gestito, soprattutto quello che poi è nelle mani delle banche nel nostro paese, che dice? Hanno imparato la lezione? Hanno imparato la lezione nel senso che sanno che continuano a poter vendere quello che vogliono ai loro clienti in gran parte, cioè hanno visto che la gente si lamenta, ma il potere della banca di ostacolare il risparmiatore che vorrebbe per esempio prendere titoli di Stato è ancora fortissimo, cioè tuttora se uno va in banca e ha dei soldi da investire viene in ogni modo ostacolato, in ogni modo gli viene messo il bastone fra le ruote perché non faccia quello che vuole lui, perché non compri titoli di Stato per esempio, o perché non compri obbligazioni bancarie sul mercato, magari della stessa banca, che rendono di più di quelle che la banca vuole mettere sul momento. Quindi in effetti io non vedo nessun miglioramento in questo, cioè le banche continuano a essere il primo nemico del risparmiatore, poi il secondo, poi vengono i fattori finanziari, ne ha tanti nemici purtroppo il risparmiatore, ma uno che ha dei soldi. Senta, posso farle una domanda? Mentre qui siamo tutti da un anno e rotti, abbiamo scoperto il problema dell'eccesso dei bonus, che ancora oggi le grandi banche americane ma anche europee si attribuiscono dopo magari che hanno ancora in pancia il capitale pubblico, fior di bonus e così via. Come mai secondo lei nessuno si occupa degli incentivi che nelle grandi banche sono quelli attraverso i quali il produttore della boutique finanziaria, dando incentivi alla rete di vendita, in realtà convoglia allo sportello a vendere quei prodotti che lei dice costano di più rispetto a quelli che sarebbero invece più interessanti per il risparmiatore? Cioè, come funzionano gli incentivi alle reti di vendita? Non è un punto di cui si dovrebbe occupare il regolatore, proprio per evitare facili fregature da parte poi dell'incolpevole bancario dietro lo sportello, perché è chi più in alto di lui che in realtà convoglia il flusso dei prodotti consigliati? Sì, dovrebbe occuparsi il datore, dovrebbe occuparsi anche i giornali. Io uno dei pochi casi in cui ho visto citare questo fenomeno è su un giornale che si chiamava Libero Mercato, che poi è stato se no sembra che ci siamo messi d'accordo. No, non siamo messi d'accordo, però questo l'ho pubblicato nel mio libro, per cui l'ho pubblicato un mese fa, non siamo messi d'accordo, ecco, dove si parla degli incentivi perversi che premiano i dirigenti della filiale o il responsabile del borsino a spese del cliente, articolo di Lorenzo Di Lena. Ora, questo fenomeno, lei dice una cosa che è verissima, diciamo che, come dire, qui il legislatore dovrebbe entrare nelle politiche interne di gestione della banca, rendere questo non mi piacerebbe il legislatore, ma il regolatore buttarci un occhio sì, ecco, perché secondo me è attraverso quello che poi il risparmio viene un po' raggirato. Questo certamente il regolatore, certo, è molto difficile perché le banche sono abili di queste qui, non sono chiamate provvigioni, vengono spacciati per appunto premi di produzione in maniera non diretta, non è la provvigione come percentuale, quindi la banca riesce a camuffare il suo venditore messo allo sportello facendo sembrare un impiegato. sì, io direi che qui la colpa, come spesso in Italia, nel risparmio e anche del giornalismo che poche volte denuncia questi fatti. Sentiamo un secondo, Mucchetti, lei che dice, ci assolviamo come giornalisti oppure no? Beh, naturalmente è sempre sbagliato generalizzare, c'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, però forse i giornali generalisti non dovrebbero dedicare più attenzione alle condizioni concrete che vengono praticate e offerte in un paese in cui tutta l'intermediazione a risparmio è tutta bancaria, a differenza di altri. Lei che dice? Ma la mia esperienza è che i giornali più o meno, diciamo, di queste cose in vario modo ne parlano. Il problema vero è che nel pubblico, il pubblico che va in banca a depositare i propri risparmi e che chiede un rendimento, no, è un pubblico fatto di, che so io, 20-30 milioni di persone. I lettori dei giornali generalisti sono molto di meno, i lettori dei giornali economici specializzati sono ancora di meno, e quindi io non esagererei la funzione dei giornali, che c'è, è importante, va fatta, abbiamo fatto troppo poco, dobbiamo fare di più, e però c'è un problema che dobbiamo deciderci che tipo di modello di paese vogliamo da questo punto di vista, perché quello che tu dici, Oscar, di un intervento almeno del regolatore, credo sia l'unico modo per venirne fuori, perché il risparmiatore che prendeva i bond argentini perché rendevano molto di più dei bond italiani, si prendeva un rischio, però onestamente, se uno leggesse normalmente i giornali, sa che l'Argentina è un paese del Sud America, sa che ogni 4 anni fa una crisi terribile, certo, eccetera, eccetera. Allora, e però lì il punto era che quel tipo di bond non era da riservare al cliente retail ordinario come la famiglia, e questo invece il sistema bancario italiano se l'ha dimenticato. Ma perché il sistema bancario italiano gli abbiamo dato il compito di guadagnare tanto. Allora, se deve fare il consulente, tu il tuo consulente te lo paghi. Certo. Benissimo, io devo porre uno stop perché abbiamo finito il nostro tempo. Insomma, avete visto, ne abbiamo parlato in maniera aperta, abbiamo bilanciato le accuse, anche un po' di difese. Insomma, secondo me le banche essere un po' strigliate, male poi non gli fa. Io adesso lo dico senza per questo voler passare da tremontiano, perché secondo me poi Tremonti esagera e c'è anche un po' di politica in testa. Attenti a una politica che vuole mandare a casa i banchieri privati, questo lo dico esplicitamente. Non mi piacerebbe mai, devono pensarci gli azionisti. E da questo punto di vista, dopo un ringraziamento a Giacomo Spunta in regia e a Alessandro Marco Tullo in redazione, la linea al Giornale Radio, appuntamento a domani. Mm.